far partire un'altra registrazione. Perché Craig fa i pasticcetti. Ok, ci sono. Benvenuti. Tra l'altro questo episodio... Ah no, uscirà, ok, uscirà prima di Frankenstein. Ops. Sì. E... Oh no. 217. Abbiamo recuperato Andrea, che l'ultima volta era malato. Andrea ha deciso bene di non parlare del film che gli sarebbe potuto piacere, ma parlare del film che sicuramente non gli è piaciuto. Aspetta, aspetta, aspetta. Hai visto Weapons alla fine, Andrea, oppure non hai visto? L'ho visto. Dai, parliamo un po' anche di... Esatto. Sì. Ma no, guarda, non fa niente, andiamo avanti. Hai ascoltato come? L'episodio? No, non ho avuto tempo. È meglio così, ci dai un tuo parere a caldo. No, boh, non mi ha convinto. È partito bene, e poi è finito a cazzo. Ma allora questa parte la tagliamo, così il collega non ha altre munizioni. Ma quindi il film Weapons è piaciuto solo a me alla fine? No, anche a me è piaciuto, però tantissimo. Cioè, meglio Barbarian. Vabbè, sì sono due cose diverse, sì. Vabbè, niente. E ci scusiamo perché nell'ultimo episodio appunto Craig ha deciso di o Craig o qualcuno per lui, tipo una strega, figlia, moglie di Ed Harris, ha deciso di non farmi parlare della trama dell'ultimo film. Adesso speriamo che la registrazione venga meglio. E niente, allora avevamo detto che avremmo parlato di due film belli, no? Dopo i film brutti che abbiamo visto, e abbiamo tirato fuori due titoli. Allora, quello della scorsa settimana comunque non era così male, e oggi siamo qui invece per parlare di Una scomoda circostanza, anche detto. Stiamo ancora cercando un film bello comunque. Sì, effettivamente. E comunque quelli proposti per i prossimi settimane non sono così belli, quindi... Vabbè. No, vabbè, c'è Frankenstein. Frankenstein non si sa, vediamo, esce domani. No, è uscito ieri, l'avevi già visto tu? No, esce domani su Netflix. No, domani. Ok. Cioè, per voi che ascolterete... Sì, stiamo esatto. Chissà quando stiamo registrando questa puntata, sì. Chi può dirlo? Vabbè, comunque, rimaniamo che per ora non si prospetta una buona selezione di film, però... Se ne può parlare, anzi potremmo far quasi tutti in una puntata. Beh, non mi distraggo ancora. Ah, dicevo, Una scomoda circostanza. Cult Stealing. È un film del 2025. Allora, il suo genere, secondo le nostre fonti incredibili, è American Black Comedy Crime Thriller. C'è un po' di tutto. Diretto da Aronofsky, mannaggia il cazzo, oggi non ce la faccio, e di cui forse abbiamo già parlato, no? Aronofsky? Di cosa? No, secondo me no. Forse no. Quando abbiamo toccato The Whale molto alla lontana. Ah, è vero, non l'abbiamo visto. Ah, è vero, sì. E basta. Requiem for a Dream, famosissimo. Io l'ho visto, ma non so se l'abbiamo visto. Sì, no, non l'abbiamo, ne abbiamo parlato. Anche Black Swan ha fatto abbastanza. Anche The Wrestler, Mother. Sì, cioè, anche abbastanza conosciuto. E niente, lui appunto è il regista di questo film. Il protagonista è Austin Butler. Che vabbè è invecchiato un pochetto, ma neanche troppo rispetto a, insomma, quando vabbè non è così vecchio, ecco, però insomma comincia a perdere un po' di colpi. E Regina King come, diciamo, antagonista principale o protagonista, non so, e anche di lei forse non abbiamo mai parlato, forse sì, però lei ha fatto un botto di roba, quindi magari è uscita da qualche parte, tipo Watchmen forse, non lo so. Vabbè. E Zoe Kravitz, la figlia di Danny Kravitz. Beh. E Matt Smith. Beh, che vabbè. No, vabbè, possiamo dire che anche lei ha fatto un sacco di, insomma, di ruoli importanti, ma tutti noi ce la ricordiamo come Catwoman, credo. Oh. Sì, vero, tra le altre cose, sì. Vabbè, vuoi citarla in nell'Eco Batman Harry Movie? Potter? Ah no, credevo in quello di Harry Potter. Sempre, no, fa sempre Gattuno. No, no, ci sta. E vabbè, insomma, anche X-Men. Ma non so se abbiamo parlato di lei in qualche film, tranne Gemini, purtroppo. Forse sì. Vabbè, era in tanti film famosi, X-Men, Mad Max, cose. Poi abbiamo il nostro buon dottore, Matt Smith, che qua interpreta uno stereotipo di qualcosa, ma poi ne parleremo. E poi abbiamo altri due personaggi abbastanza importanti per la trama, ma che si palesiano solo verso il finale, che sono interpretati da Vincent D'Onofrio e da Liev Schreiber. Come cavolo si pronuncia il suo nome ebraico? Non vabbè, so, Vincent, però, vabbè. Vincent D'Onofrio ovviamente importantissimo per Full Metal Jacket e altre 2000 robe Marvel che ha fatto dopo, e anche altre robe relativamente terribili tipo Jurassic World. Man in Black, bellissimo. Man in Black, sì, corretto. Però Man in Black era ancora un'altra persona quando faceva Zucchero. E invece Isaac Schreiber, ce lo ricordo, Schreiber qualcosa, anche lui ha fatto una valangata di roba e credo che anche di lui non abbiamo parlato quasi di niente. Io l'ho riconosciuto all'istante, non tanto per l'aspetto ma per il doppiatore, che c'ha una voce molto iconica, e vabbè, lui forse lo ricordo bene per, diciamo, il personaggio di Victor Sabathus di X-Men. Sì, fratello, e vabbè, in realtà era anche in Don't Look Up, ma vabbè, lo stesso, facciamo finta di non ricordarcelo. Va bene, basta, non devo citare nessun altro. E, insomma, io cito questo... Carol Kane, che è in Unbreakable Kimmy Schmidt, così, per simpatia, mi sta simpatica, fa la vecchietta. Non ho capito se è la madre di loro due, pare di sì, non lo so. Allora io cito Griffin Dunne per Only Murders in the Building. Ah sì? Ma che dici? Davvero? Ha fatto una comparsata in Only Murders. Ah, ok. Va bene, ci fidiamo. Ci fidiamo. Ha fatto tipo in due episodi Dudedonf nella stagione, non mi ricordo quale, la terza forse. Mm-hmm. Quello, vabbè, quello morto, non morto, coso, non coso. Non so, vabbè, comunque, niente, vabbè, facciamo finta di... Anche voi tra il cast avete visto Laura Dern, e io non ho visto Laura Dern nel film. Spoiler. Si vede? Sì, c'è, sì. Si vede. Sì. C'è una scena sola. 15 alla fine. Infatti è accreditata, ma lo screenplay è tipo un secondo. Vabbè, allora, di cosa parla questo film? Allora, siamo negli anni 2000 e il nostro protagonista è un bartender che vive nel Lower East Side. Allora, in realtà è abbastanza importante Manhattan in questo film, nel senso che è molto pesante come ambientazione, nel senso che sia i quartieri sia il tipo di... vabbè, poi gli spostamenti sono abbastanza importanti, non è vero che siano essenziali per la trama, però insomma il regista ce lo fa pesare che è in questi quartieri. E lui praticamente ha questo rapporto strano con la madre, un po' tipo mammone, un po' tipo... sono entrambi fan del baseball, ma fan sfegatati dei Giants, e quindi hanno una sorta di amicizia in quando parlano di questo, è una sorta di rapporto strano madre-figlio. E poi l'altra cosa che si vede è il suo rapporto con la sua fidanzata, interpretata da Zoe Kravitz, e che si chiama... Non mi ricordo più niente. Yvonne. E la trama inizia quando il suo vicino di casa, un punk mezzo tossico, mezzo strambo, alternativo, e metallaro, non si sa bene come, sai, sono tipo i punk anni 90 più che anni 2000, col crestone eccetera, e decide di andare e si vede mentre sta tornando a Londra, perché suo padre ha avuto un infarto, e quindi chiede aiuto al suo vicino e gli affida il suo gatto e dice di buttarci un occhio. E questa sequenza di eventi mette il nostro protagonista Harry Thompson in una serie, in una spirale di cose, per cui si dovrà, diciamo, dovrà avere rapporti con gangster che lo malmenano, con altri gangster che invece gli puntano le pistole in faccia, con la polizia, dei narcotici, eccetera, eccetera, in una spirale che poi sembra un po' quasi The Snatch, non so come, un tipo di film di questo tipo, per cui lui non capisce un cazzo fino a che capisce cosa sta succedendo e prende in mano la sua vita, ecco, fondamentalmente questo è il film. Che dire? Non lo so. Ho scordato qualcosa, no? Tecnicamente no. Allora, no, vai. Sai come si dice a volte che tipo tu elenchi le cose di un film, però poi dici, vabbè, però il film è più della somma delle sue parti, no? Cioè, tipo, non so. Sì, allora, il tipo Willy's di Wonderland... film... Come? Esatto, ma anche il tipo di film da cui si prende un po' ispirazione la narrazione è un film che dovrebbe essere di questo tipo, perché è una sorta di tarantiniano, un po' appunto The Snatch, un po' Slevin, non so se, un po' quel tipo di film. E quindi in realtà si dovrebbe prestare a questo, no? Nel senso, tu parli di diverse trame intersecate tra loro e alla fine crei un film incredibile, in teoria. Sì, ci prova, però boh, non riesce tanto bene, secondo me. Non so. Allora, secondo voi perché non è riuscito? Perché quello che stavo dicendo, cioè, è esattamente, non è più della somma delle sue parti, è esattamente la somma delle sue parti, cioè 2 più 2 vale 4, cioè proprio questo, il film è un film. Cioè, io ho finito di vederlo, ho detto, cavolo, quello era proprio un film. Cioè, ho visto un film e basta. Cioè, non so, era un po' di tempo che non vedevo un film che non è niente di più. Cioè, non era brutto, non è Retirement Plan, non è neanche carino, tipo Weapons, interessante, cioè, strutturato strano, con argomenti, eccetera. È un film, lo guardi e finisce, è anche un po' lentino, secondo me, cioè succedono un po' di cose. Secondo me non è lento, secondo me perde proprio il ritmo, un certo, cioè... Sì, esatto, sì. Rallenta, ecco. Cioè, molte scene sono, e poi succede questo, capito? Esatto. Cioè, invece di dire, ma, e poi c'è questo, sì. Semplicemente sì. Va avanti, no? Però ci sta, cioè... alcune cose mi sono piaciute, alcune interpretazioni. Non ho capito dove sta la parte comedy, onestamente. Beh, alcune parti con loro due sono carine. Cioè, quando arrivano loro due... Ah, tu sì, ok, loro sì. Però loro sono appunto dei personaggi scritti come fossero parte di un altro film. Cioè, appunto, una roba tarantiniana, una roba tipo... una roba che sembra più, che ne so, un... appunto... non Slevin, The Snatch, vero, sì, come tipo di mancava la musichetta da The Snatch, però non ci siamo. A me ha ricordato un misto tra Slevin, non so se avete presente. No, sì, no. Quello del tizio che quello del com'è che si chiama, della manovra Kansas City. Della la mossa Kansas number. City. Kansas City, City Shuffle. Dai, quello del bluff con Bruce Willis, con... Ah sì, che l'hai visto, Andrea. Andrea, l'hai visto sicuro. Sì, l'hai visto sicuro. Vatti a vedere. Google. Google. Lucky Numbers Levin. Comunque, un misto tra quello e Wanted. Oh mio Dio. Vi ricordate Wanted, quello con Angelina Jolie? Oddio, sì. E James McAvoy, quello che lui alla fine, no, dice sì, io sono un figo. Questo è uguale. Oddio, senso... non proprio. Cioè... No, non nella trama di lui che deve i proiettili, chiaramente. No, dico in... anche... Sì. No, no, dimmi. No, dici la parte in cui diventa un criminale, no? In che senso? Sì, la parte in cui alla fine lui fa resistenza e dice io non sono così e poi si arrende agli eventi. Ok. No? Vabbè. Più che arrendersi... Sì, però più che rendersi l'ho visto proprio come un... Cioè, invece di andare a sbattere per sbaglio, andare a sbattere... Sì. Letteralmente. Letteralmente, cioè, di persona, cioè, apposta, non lo so. E l'ho... Questa parte l'ho apprezzata, cioè, è molto... è troppo, diciamo... Te la sbattono troppo in faccia, ce la ripetono, la ripetono, la ripetono, dire sì, ho capito. Saper arrivare, cioè era proprio aspettato. Esatto. Forse una volta di troppo l'hanno ripetuta, però, sì. Cioè, ripeto, il film fosse durato quel 20 minuti di meno, secondo me sarebbe stato ancora più godibile, però già così... Non so, non mi è dispiaciuto, non mi ha fatto schifo, ripeto. No, non è... Cioè, esatto, non è The Retirement Plan, non è Minecraft. Ah, tra l'altro Matt Smith, capolavoro dei performance. Cioè, Matt Smith, ogni volta che era sullo schermo, io ero convinto. Cioè, sì, tra l'altro tu lo vedi all'inizio, poi non lo vedi per tipo un'ora e dici, ma e quindi? E quell'ora è l'ora peggiore del film, vedi? Cioè, nel senso, non è una coincidenza. È tutto, riporta tutto. Dottoru. C'è anche qualcosa di strano, nel senso che io, vabbè, non mi riesco a immedesimare nel protagonista, nel senso che non capisco bene, vabbè, il protagonista è chiaramente più profondo di quello che viene detto all'inizio, in teoria, poi vabbè, non è che la performance sia incredibile, però insomma, quello... E perché ha subito un trauma abbastanza pesante, eccetera, eccetera, perché è comunque un pezzo di merda, diciamolo. E... Però non sono riuscito a capire bene che cazzo stesse dicendo. Cioè, ho capito che lui, appunto, cioè, il trauma di essere un atleta e non l'essere più, eccetera, però non avendolo mai vissuto e non percependolo bene come cosa reale, non lo so, boh, mi ha lasciato un po'. Io ho avuto quel problema lì, e poi il problema in cui c'è la tizia che muore, ops, spoiler, ma sì. Non sapete di che tizia sto parlando, però vabbè, insomma, fate 2+2, e è un po' del tipo buttata lì. Sì, è vero. Nel senso, sì, vado lì, ok, cioè, però l'abbiamo fatto per mandare un segnale, ma non si sa chi l'ha fatto, quindi che segnale hai mandato, scusa. No, è vero, cioè, la parte è proprio, boh, cioè, una cosa che potevano evitare tranquillamente, invece di fare come tutti gli altri film, perché è vero, cioè, sei un po' crime thriller, noir, quello che ti pare, però... Puoi anche non farle certe cose, cioè non sei obbligato a seguire ogni singolo cazzo di... Sì, o lo fai mettendolo in modo organico nella narrazione, cioè lì, boh. No, è vero, però devo dire, cioè, c'è alcuni momenti che mi hanno fatto, diciamo, accendere, nel senso che non ho visto questo film come una tortura, cioè non è che mi sentivo tipo oddio, perché anche perché c'erano quei momenti belli di persona, tipo quando arrivano al pianerottolo e si parlano fra vicini di casa, no, all'inizio. Mm-hmm. Quella scenetta lì dura boh un minuto, ma è perfetta. Cioè quella scena lì mi ha fatto sperare in un film migliore di quello che poi è stato. Però è molto, non lo so. No, lui gestisce da Dio le parti, secondo me, alla, appunto, a tarantiniane, non so come dire, cioè di dialoghi tra gangster, per cui la parte tipo nel bar in cui senza motivo, cioè quella spara all'altro, cioè senza motivo, insomma, così dal nulla, è molto Tarantino come cosa, ma anche quando loro due parlano nel van, queste cose qua, questa parte e queste parti secondo me sono quelle più, più carine del film. Purtroppo tutto il film insieme appunto è medio. Ma i due russi? No, i due ucraini, i due russi. Sì, boh, non si è capito. Non si è capito. Cioè, quello... Ecco, un'altra cosa. Ho sentito un odore di... Non so, di grandezza, di gloria, quando ho visto quello che invece di menarlo normale lo caricava con la testa. Questo personaggio è incredibile, cioè questo personaggio è... E poi invece no, cioè poi alla fine un po' sprecatini pure loro. Sì, loro fanno veramente poco, fanno meno degli altri due che comunque sono, vabbè, loro hanno un po' più spazio nei dialoghi, ma... Non so. Dai Andrea, dici tu. Ci abbiamo provato, sarà per la prossima. Allora, non so se l'avete percepito, in teoria il regista ha cercato di inquadrare, poi questo l'ha detto lui, io non l'ho percepito, vi dico già cosa ne penso, ha cercato di focalizzarsi su dettagli apposta per dare più spazio alla psicologia dei personaggi. Non so se... cioè del tipo... diciamo, allora, ve lo dico in un altro modo, poi vediamo se qualcuno di voi ha visto. Nel senso, lui dice, afferma nelle sue interviste, che ha cercato di avere inquadrature tali per cui... diciamo i dettagli che inquadrava, che non c'entrava niente con i dialoghi, con l'interpretazione eccetera, e aggiungessero alla storia delle cose dei personaggi. L'avete percepito? No. Ok. Manco io. Però sì, lui ha cioè lui si è, diciamo, si è tagliato del tempo, ha fatto una riflessione su sta roba qua, e penso si riferisca al tipo alla radio che dà il baseball, al cioè le inquadrature un po' più tipo di lui che fissa cose in particolare nella strada di New York, queste cose qua. Però appunto vabbè, niente. Beh, basta. No, grazie. Pensavo al gatto, una delle cose belle del film, cioè il gatto. Le inquadrature sul gatto e basta. Le inquadrature sul gatto, esatto, sì. Come si chiama il gatto? Buddy? Johnny, come si chiama? Buddy, mi pare Buddy. Ma Salla, tu non hai detto la cosa più interessante di questo film? E qual è? Che inizialmente lo scrittore doveva essere lo stesso sceneggiatore di Warrior Nun. Ah, sì? Che in realtà è... Esatto, che in realtà è Solid Snake, la voce di Solid Snake in Metal Gear Solid. Ah, ma poi non lo sapevo. Perché poi non è lui. Cioè, inizialmente sì, poi hanno cambiato... No, hanno preso uno che non so neanche cosa abbia fatto, in realtà. Il libro, mi sa, è quello del libro. No? Ah, ok. Ho detto male? No, poi, cioè, che ha scritto il libro e quindi poi dal libro ha scritto la sceneggiatura. Pare di sì. Però sì, vabbè, non è così facile, sono un po' due mestieri diversi, poi sono persone più brave, meno brave, però... Vabbè. Oddio, effettivamente forse questo era anche il problema, cioè avere lo scrittore del libro che ti fa la sceneggiatura, no, poi la sindrome di Stephen King. Sì, esatto, sì. No, poi immagino avesse altra gente alle spalle, però sì. Non è sempre detto che sai fare il tuo mestiere. Poi ci sono eccezioni, tipo Connelly, ha collaborato alle sue serie TV e sono incredibili rispetto ai libri. Cioè, ha cambiato un sacco di roba e cioè, cinematograficamente è bello. Poi vabbè, è una serie TV, però... sì, vedi Stephen King che da due consulenze fa La Torre Nera. Oh, trigger! Ah, quello di Bosch. Sì. Ah, cazzo. Okay. Ne ha fatti un botto, in realtà ha fatto Bosch, ha fatto Lincoln Lawyer, che è su Netflix. E rispetto ai libri è molto simile, ma non lo è. Cioè, ha cambiato molte parti della storia per rendere i personaggi un po' più da serie, ecco. Poi vabbè, non l'avrà fatto da solo, però è... neanche Stephen King. Va bene. Volevi fare dire... Volevate dire qualcos'altro su questo incredibile cop-feeling? Ah, il botteghino, per concludere, dicevo prima, ne parlavo prima, è fuori registrazione, non è andato benissimo. Boh. Vabbè. Però no, allora, il botteghino è andato benissimo, le recensioni sono nella media, quindi è stato più un problema probabilmente di... vabbè, si saranno uniti sia il fatto che adesso il cinema fa schifo, cioè nel senso gli incassi fanno cagare in generale, sia il fatto che il film è nella media. Mm. Comunque non è negativo, è nella media. Va bene. E va bene. Peccato. Cosa altro dobbiamo aggiungere? Abbiamo in canna altri tre film. Uno è un'incognita. Eh no, uno è un'incognita. Gli altri due sai già quali sono, quindi che cazzo me lo chiedi? Uno dei tre è un film sapio. Aspetta, quale? Qual è il film sapio? Beh, quello americano. Vabbè, in teoria lo è, dai. No. Diciamo che è La Stregua di Don't Look Up, a mio parere. Non proprio. Vabbè. E quindi sarà da discutere, vedo già. E uno è un film nostalgico. Mm-hmm. Ok. Che vediamo come è invecchiato. E uno è un'incognita. Ci siamo? Sì. No? Tutto giusto. Quindi avete, diciamo, adesso non avete scuse, avete 2 settimane, forse anche 3, per trovare un film bello. No, vabbè, ecco. 2, dai, questi sono 2 episodi. 2 settimane per avere un film bello. Ce la possiamo fare, già. Dai. Ce l'ho già. Ok, va bene. Jurassic World Rebirth. Ecco. Oh no. Vabbè, così. No. Credevo dicessi Avatar che esce adesso. O il film di Aldo Giovanni e Giacomo che esce tra un mese. Ci riproviamo. Va bene, dai, grazie di averci ascoltato, grazie di aver fatto la puntata con me e di aver registrato con me, e noi ci vediamo settimana prossima con un film da Oscar. Ciao. Ciao.